Oltre Tevere, Vaticano e dintorni. Di Katia Caramelli e Don Willy Volonté. Una buona domenica a tutti. Pontifex è questo l'account ufficiale con il quale il Papa sbarcherà su Twitter. Per il primo intervento bisognerà attendere il 12 dicembre. In quel caso sarà lo stesso Benedetto XVI, che non usa il computer e scrive i suoi libri a matita, a lanciare il primo messaggio, per poi affidare questo compito ai suoi collaboratori. Padre Massimo Granieri, blogger, responsabile comunicazione dei padri passionisti. Io credo che ogni cristiano sia chiamato a relazionarsi con il mondo, quindi a testimoniare la sua amicizia con Cristo attraverso le parole e l'annuncio. Penso che il Papa appunto si inserisca tranquillamente in questo discorso e io anzi mi chiederei perché il Papa non debba esserci su Twitter. È da tanto tempo che ormai la Santa Sede ha mostrato una grande attenzione per i nuovi mezzi di comunicazione. Certo, la popolarità dei social networks sono la prova evidente del bisogno della gente di interagire con gli altri. I social networks, soprattutto Twitter, offrono l'opportunità di condividere una storia, no? Anche in maniera breve, veloce, di scrivere, di condividere un messaggio pieno di significato che addirittura può cambiare la vita di chi ci legge e di chi ci segue. Non ce lo vedo a pigiare i tasti di una tastiera di un computer, però sono sicuro che li detterà usando il suo solito linguaggio, che è molto semplice, alla portata di tutti, ma sempre profondo e ricco di contenuti. Uomo di grande dialogo, così i rappresentanti di tutte le religioni ricordano il cardinale Carlo Maria Martini. Il centro buddista Mandala di Milano il prossimo 13 dicembre dedicherà una giornata di riflessione proprio allo scomparso arcivescovo di Milano. Il responsabile del centro è Lama Palgin. Abbiamo pensato di iniziare con una giornata, ma continueremo poi a fare degli incontri ogni mese con pubblici e con dibattito, proprio per illustrare meglio e anche con prendere in considerazione quelle che erano le basi, i fondamenti del pensiero di Martini, perché lo riteniamo una persona del dialogo e noi appoggiamo veramente tutto quello che riguarda il dialogo fra le genti e fra le religioni. Lei che ricordo ha del cardinale? Credo che lui in vita e anche dopo la morte sia stato un ispiratore della gente. Difatti molti hanno voluto ancora adesso riprendere le sue riflessioni e confrontarle con le proprie idee. Quindi questa funzione di stimolare le coscienze credo che sia proprio stato uno dei pregi maggiori, forse il vero compito della missione del cardinale Martini. Lei ha già accennato al dialogo interreligioso. Dal punto di vista del suo osservatorio, cosa è stato fatto e cosa va fatto? Devo dire che a Milano il dialogo interreligioso, proprio per iniziativa del cardinale Martini, ha avuto una spinta notevole e sta continuando bene. Il cardinale Martini è stato uno dei promotori del Forum delle Religioni che vede i responsabili delle principali religioni presenti sul territorio incontrarsi regolarmente per fare un discorso di pace che possa essere portato anche alla cittadinanza. Anche il sindaco Pisapia è su questa lunghezza d'onda, forse potrebbe essere proprio lui il garante di una continuità dialogica che apre la via ad un più costruttivo rapporto fra le religioni e la pubblica amministrazione, con forse un grande beneficio per la città. Qual è il terreno comune sul quale bisogna lavorare? E liberarci dai preconcetti e far capire alla gente che l'altro ha le nostre stesse esigenze di felicità e di serenità e non vuole soffrire, quindi condividere queste esigenze e fare in modo che si possano realizzare. Ora c'è Don Willy Volonté. Finalmente nelle librerie, Katia Caramelli ha dato voce domenica scorsa all'uscita del terzo volume scritto dal teologo Joseph Ratzinger, Papa Benedetto XVI, L'infanzia di Gesù. La prospettiva di Joseph Ratzinger è stata quella di esprimere la sua fede, supportata dal rigore del teologo che indaga, approfondisce e cerca le ragioni del suo credere. E così scandaglia le ragioni storiche che certificano ciò che la tradizione ci ha consegnato. L'ascoltatore si domanderà: ma il parto virginale di Maria è un reale evento storico oppure una pia leggenda che a suo modo vuole esprimere e interpretare il mistero di Gesù. La stella cometa e i magi che vengono da lontano per adorare il Figlio di Dio sono fatti realmente accaduti? Risponde il Papa. Se Dio non ha potere sulla materia, allora egli non è Dio. Ma egli possiede questo potere e con il concepimento virginale del Figlio di Dio e la risurrezione di Gesù Cristo, Dio ha inaugurato una nuova creazione. Gesù non è dunque un mito. I capitoli che l'Evangelista Matteo dedica all'infanzia di Gesù non sono, continua il Papa, una meditazione in forma di storia. Al contrario, Matteo ci racconta la vera storia che è stata interpretata teologicamente e così ci aiuta a comprendere più a fondo il mistero di Cristo. Così come Luca trascrive nel suo Vangelo episodi e parole che solo Maria, madre del Signore, poteva conoscere, come le espressioni verbali dell'angelo nel momento dell'annuncio che sarebbe diventata la madre di Dio. Insomma, queste pagine scritte da Papa Benedetto sembrano fare eco alle parole della prima lettera dell'Apostolo Giovanni. Quello che noi abbiamo veduto, quello che noi abbiamo udito, quello che le nostre mani hanno toccato e contemplato del Verbo della vita, lo annunciamo anche a voi perché anche voi siate in comunione con noi. Con il suo terzo libro, Papa Benedetto ci fa toccare con mano qualcosa che è difficile relegare nel mondo delle favole. Ci piaccia o no, è veramente accaduto.